English Bit di Giulia Crivelli. Take over. Dolce & Gabbana takes over Naples for a wild Alta Moda weekend. The Italian house's answer to couture was inspired by Sophia Loren, who grew up not far from the show's location. Il sito di modafashionista.com ha pubblicato un ricco reportage con foto dell'evento organizzato da Dolce & Gabbana a Napoli e durato 4 giorni, da giovedì 7 a domenica 10 luglio, domenica scorsa. Dolce & Gabbana conquistano Napoli per un weekend di alta moda. La versione della couture del marchio italiano è stata ispirata da Sophia Loren, cresciuta non lontano dalla location dello spettacolo. Questo è il titolo tradotto. Un titolo un po' sbrigativo, se vogliamo, perché lo show, che significa sia spettacolo sia sfilata, si è tenuto in realtà in 4 diverse location: i vicoli di Spaccanapoli, Castel dell'Ovo, Viglia Pignatelli e Posillipo. Ma torniamo al titolo di Fashionista. La parola che ci interessa è to take over, un phrasal verb irregolare, take, took, taken, che può assumere significati letterali o figurati, come in questo caso, dove possiamo tradurre con conquistare. Ma si può anche dire try not to let negative thoughts take over, non lasciare che i pensieri negativi prendano il sopravvento, diremmo in italiano. Oppure, con una sfumatura diversa, it has been suggested that mammals took over from dinosaurs. Alcune teorie suggeriscono che ai dinosauri siano subentrati i mammiferi. Si può usare anche la forma passiva in gergo economico. CBS was taken over by Sony. La CBS fu conquistata, comprata dalla Sony. Sempre in termini concreti, il verbo può essere usato in gergo bellico. The army is threatening to take over if unrest continues. L'esercito minaccia di prendere il potere se i disordini continuano. Ci sono molti altri phrasal verbs composti a partire da take. To take off significa decollare e si usa sia per gli aerei sia per i progetti. The airplane took off with an hour delay. My son's project took off sooner than expected. L'aereo decollò con un'ora di ritardo, il progetto di mio figlio si concretizzò prima del previsto. To take out something on somebody significa invece prendersela con qualcuno che in genere non ha colpe, non se lo merita. Ok, you had a bad day. Don't take it out on me. Ho capito, hai avuto una giornata no, ma non prendertela con me.